24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:35 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua con una nuova puntata di 24 mattino, per la quale voglio subito lanciare il sondaggio. Il sondaggio oggi parliamo di Beppe Grillo. Ebbene sì, Beppe Grillo scende in politica. La domanda che vi vogliamo fare è: ma in politica secondo voi c'è bisogno di un Beppe Grillo? Sì o no? Dovete votare su radio24.it o ilsole24ore.com, ne parliamo approfonditamente alle 8:30. Ora i giornali. In primo piano. Il lodo Alfano che tiene banco, la seduta alla Corte Costituzionale è stata aggiornata e oggi presumibilmente dovrebbe esserci la decisione. Praticamente è monotematica l'apertura, dunque lodo Alfano, l'attesa del verdetto, la Corte cerca un compromesso, questo è il Corriere della Sera, lodo il giorno della verità per Repubblica. La Stampa, lodo Alfano, sale la tensione, la Consulta deciderà oggi. Il Giornale, 7 italiani su 10 stanno con Berlusconi, un sondaggio fatto per il Giornale da Euromedia. Doppio gioco contro Silvio, questo Libero, il Messaggero, lodo Alfano, fumata nera. Il Riformista, Silvio super pares, che è una delle tesi che sostenute dai suoi avvocati che hanno fatto più discutere, insomma temi legati al lodo Alfano per l'appunto, questo per quel che riguarda le aperture dedicate a questo tema. Per quel che riguarda il Sole 24 Ore invece l'apertura economica con l'appello della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, politica distratta sulla crisi. Anche questo è un tema interessante perché vedremo, e vi dedica in qualche modo l'editoriale di prima pagina anche il Corriere della Sera. Ma andando con ordine, proprio la vicenda del lodo Alfano occupa tante pagine sui giornali, commenti, interviste, ne ho selezionate alcune. Voglio partire dalla Stampa, pagina 2, la Stampa intervista il costituzionalista Alessandro Pace. Chi è il professor Alessandro Pace? È colui che ieri si è presentato per presentare un memoriale in difesa della Procura di Milano, dunque contro il lodo Alfano, memoriale che però non è stato accolto, non è stato accettato dalla Corte Costituzionale. Però è interessante perché il professor Alessandro Pace, intervistato da Francesco Grignetti, dice sostanzialmente perché secondo lui il lodo è incostituzionale. E poi però questa intervista si concentra sulla figura di Alessandro Pace, che viene definito una persona che da quasi 30 anni rincorre per le aule di giustizia Silvio Berlusconi. E lui dice: ho cominciato nell'81, ero consulente legale della RAI, preparai la memoria nel caso Mundialito, il torneo tra le quattro nazionali che avevano vinto la Coppa del Mondo. Fu la prima volta che Berlusconi ebbe l'interconnessione. Canale 5 ottenne una deroga per utilizzare con un cavillo i ponti radio della società Italspazio. Quale cavillo? La legge prevedeva l'uso dei ponti radio in caso di emergenza nazionale. Il Mundialito fu equiparato a una catastrofe naturale. E poi nel 94 ho sostenuto l'incostituzionalità della legge Mammì. Nel 2002 ho sollevato la questione di costituzionalità della legge Maccanico. Nel 2004 ero qui alla Corte Costituzionale contro il lodo Schifani. Ma mi sento come un guerriero dell'Iliade. Io vinco sul piano degli umani, poi intervengono gli dèi. Fece scalpore alla vigilia della sentenza della Consulta che dichiarò illegittima la legge Mammì quando Berlusconi fu ricevuto dal presidente della Corte. Così dice Alessandro Pace, e curiosamente sulla figura di Alessandro Pace si concentra proprio Libero. Libero in prima pagina, l'avvocato che rappresenta i giudici milanesi nella Consulta, vale a dire Pace, è pure il legale di fiducia di De Benedetti. Si chiama Pace e fa la guerra a Berlusconi. L'articolo è del vice direttore Mario Secchi. Silvio, occhio all'avvocato, l'Italia è la culla del diritto, ma bisogna ricordare che questa è la patria di Azzeccagarbugli. Alessandro Pace, ieri a nome della Procura di Milano, ha presentato una memoria difensiva alla Consulta. Memoria che peraltro, come detto, è stata non accolta. E dice dunque: per dimostrare le sue tesi, la Procura di Milano, scrive Secchi, non sceglie un legale qualsiasi, ma una toga che ha difeso con le unghie e coi denti gli interessi di Carlo De Benedetti, il nemico numero uno del Cavaliere. E dunque, insomma, è curiosa anche il fatto di concentrarsi su questa figura, quella di Alessandro Pace, sia sulla Stampa sia su Libero. Ovviamente le cronache sono anche piene di quello che è successo, la giornata ieri alla Corte Costituzionale. Berlusconi, se non passa la norma toglierò tempo al paese per difendermi. Questo si legge a pagina 5 del Corriere della Sera. Un Berlusconi che comunque è definito in un resoconto di Maurizio Giannattasio. Ieri si è presentato a Lesmo, in provincia di Monza, a Villa Gernetto, con 40 imprenditori, una cena a pagamento, 10.000 euro per ripianare le spese elettorali delle ultime provinciali. Un Berlusconi che, si legge, ha parlato per mezz'ora, ha detto andremo fino in fondo, andremo avanti 5 anni, non temo le elezioni anticipate, stiamo lavorando per il bene dell'Italia, abbiamo aumentato il prestigio internazionale del paese, abbiamo superato la crisi. E poi ha detto noi imprenditori dobbiamo crederci ancora più degli altri. Ma certo c'è grande attesa, c'è anche grande polemica per questa tesi appunto che hanno portato avanti i legali di Berlusconi. Il primo è stato Pecorella a portarla avanti, l'idea di un Berlusconi è primus super pares, cioè è stato eletto dal popolo direttamente con un'indicazione e dunque sarebbe un primus super pares rispetto a chi? Rispetto agli altri ministri, insomma. C'è questa polemica creata appunto da questa tesi su Repubblica. Repubblica intervista vari giuristi, vari costituzionalisti proprio riguardo a questa tesi portata avanti da Pecorella alla Corte Costituzionale. I giuristi bocciano Pecorella e Ghedini. È un caso di ignoranza istituzionale secondo qualcuno. Secondo per esempio il professor Merlini, Stefano Merlini. Michele Ainis dice si sta allargando ormai la forbice tra Costituzione scritta e Costituzione materiale. Gaetano Azzariti, si sta finendo per avvalorare la tesi che il Lodo Alfano non sia altro che una normativa di privilegio per il Premier. Invece a favore Niccolò Zanon, che insegna diritto costituzionale a Milano e dice le differenze tra il Presidente del Consiglio e i ministri ci sono e hanno un fondamento costituzionale. Insomma, oggi dovrebbe essere il giorno del giudizio per quel che riguarda il Lodo Alfano, anche se trovate ancora molto riguarda l'altro lodo che fa discutere in questi giorni, il Lodo Mondadori, la sentenza che ha condannato in tribunale civile Fininvest a pagare 750 milioni a De Benedetti. È interessante quello che oggi scrive il Foglio, un'analisi in prima pagina, pensare l'impensabile, l'accordo tra Fininvest e CIR. E tra l'altro in questa analisi si dà voce a Francesco Forte, erede di Einaudi alla cattedra torinese, ex ministro pubblicista di combattimento. Dice Forte, è un boomerang quel verdetto. Se De Benedetti riceverà l'indennizzo, tutto molto teorico, dovrebbe tenerlo liquido, dato il rischio di doverlo rendere. L'intreccio politico-affari alla lunga danneggia l'imprenditore. Dal Manzoni si impara che chi inizia una rivolta ne perde il controllo. È difficile far fuori un Brianzolo. Non lo si legge nel Manzoni, che però era di quelle parti. E allora, ecco la proposta. Sapendo entrambi, Berlusconi e De Benedetti, che l'altro non può mai essere dato per finito, consapevoli entrambi che due grandi gruppi non possono vivere bene in borsa e non solo nell'incertezza dei tempi e dei modi della giustizia italiana, tutto induce a pensare che sia necessario un accordo. Palese o no, poco conta. All'ingegnere, che qualche ammaccatura l'ha rimediata in questi anni, al cavaliere, che naviga nei sondaggi a Palazzo Chigi, ma qualche guaio nel governo, nella situazione giudiziaria, ce l'ha. Ecco dunque la proposta dell'accordo lanciata dal Foglio. Tra l'altro invece segnalo su Il Sole 24 Ore, a pagina 8, trovate un'intervista che Antonella Olivieri ha fatto a Vittorio Dotti. Vittorio Dotti chi è? Era il legale che assisté Fininvest all'inizio della cosiddetta guerra di Segrate, dunque era legale molto vicino a Berlusconi. Oggi dice parole di questo tipo sulla sentenza. Non vede, alla domanda, non vede nulla di strano nella tempistica, per esempio, della sentenza? Assolutamente no. Di fronte a una sentenza, se non si è d'accordo, si reagisce promuovendo un appello, chiedendo una sospensiva. Non certo gridando al complotto o aizzando la piazza a manifestare. Quello che mi stupisce è come viene esibita superficialità riguardo all'operato del tribunale. È opportuno che tutti si diano una calmata. E ancora sull'entità della cifra, non penso proprio che il tribunale abbia stabilito la cifra in modo arbitrario. Certo è una cifra importante, ma anche il controllo della Mondadori era importante. Bisognerebbe leggere la sentenza e io non l'ho letta. Sentenza, tra l'altro, o stralci delle motivazioni che oggi trovate su pubblicati da Il Fatto. Il Fatto che titola sul Lodo Alfano, lui è superiore alla legge, la Corte prende tempo, all'interno pubblica gli stralci della sentenza Lodo Mondadori, il testo delle motivazioni sostanzialmente con cui il giudice ha condannato la Fininvest a risarcire De Benedetti. Se volete leggervele, ci sono all'interno due pagine fitte fitte delle motivazioni. In primo piano. A chi lodo, a chi niente. Questo è il titolo che trovate in prima pagina sull'Unità. E c'è una persona ritratta di schiena, non si può vedere il volto, è Piera Aiello. Chi è Piera Aiello? Piera Aiello è una testimone di giustizia che dopo l'uccisione del marito fece i nomi dei boss nella provincia di Trapani nel 97. Andò insieme a Rita Atria, sua cognata, anche lei testimone di giustizia, a Roma, protetta tra l'altro da Paolo Borsellino. Rita Atria poi si suicidò proprio pochi giorni dopo la strage di Paolo Borsellino. Ebbene, perché è intervistata Piera Aiello? Perché è uscita dalla scorta ed è ritornata al suo paese. Ho consegnato i boss, ora sono senza scorta, senza copertura. I carabinieri mi hanno spiegato che sono uscita dal programma di protezione, sono fuori. È un'intervista molto bella, Yolanda Bufalini all'interno dell'Unità, due pagine. Ricorda Paolo Borsellino, che lei insieme a Rita Atria chiamava zio Paolo. All'inizio gli davo del lei, lo chiamavo onorevole. Lui mi disse: con tutto il rispetto, io non sono onorevole, né voglio esserlo, sono solo un procuratore della Repubblica. E ora è tornata a casa, non si può far vedere il volto, non se ne può registrare la voce. Come è stata accolta Partanna, dice, non si è visto nessuno tranne i parenti e qualche amica cara, non ci sono comitati d'accoglienza, non si sono sperticati per venirmi a trovare. È una bella intervista che trovate a Piera Aiello. Come incredibile la vicenda che trovate sulla stampa pagina 15. Insulti e violenze per l'assenza in aula. C'è stata la votazione dello scudo fiscale, come sapete, ne abbiamo parlato, molti del PD non erano presenti, per questo anche lo scudo fiscale è passato, e allora c'è un processo che il PD sta facendo, un processo agli assenti parlamentari. Solo che succede, ieri c'è stata una denuncia molto forte da parte di Ileana Argentin, parlamentare costretta sulla sedia a rotelle da una tetraplegia, denuncia episodio sconcertante. Da venerdì, quando ho mancato la votazione sullo scudo fiscale, ho ricevuto minacce, aggressioni verbali e fisiche. Non solo sabato alla manifestazione sulla libertà di informazione, ma anche ieri sera, camminando per la strada a Piazza Venezia, quando la mia carrozzina è stata presa a calci. Parla con la voce rotta dalla commozione, strappa un applauso fragoroso dell'assemblea e fuori dalla buvetta se la prende garbatamente anche con Soro, il capogruppo, per non aver reso pubblico il suo certificato medico. Insomma, le polemiche all'interno del PD riguardo a quello che è successo. Dobbiamo correre con qualche segnalazione. C'è questo caso che trovate su tutti i giornali di sequestro, finto sequestro, presunto sequestro di alcuni manager della Alstom di Colleferro. I dirigenti dicono nessun rapimento, sono andati a dire insomma che c'è un problema, e quindi 150 dipendenti, 50 sono in cassa integrazione, insomma è una situazione di crisi economica. Parla sulla stampa Riccardo Pierobon, che è uno dei manager presenti, dice: giuro, assolutamente nessuna paura, eravamo tranquilli in una stanza. Certo, ho saputo di essere stato, tra virgolette, sequestrato quando mi chiamavano o mi ricevevo sms sul cellulare dalla Francia, dall'Inghilterra, ma tutto bene. Certo, c'è stata qualche concitazione, qualcuno urlava, ma è stata una protesta più che civile, senza nessuna intimidazione. Una segnalazione dal Corriere della Sera: 375.823.250 euro, una cifra che basterebbe per comprare 300 carrozze deluxe per i treni pendolari, rimettere in sesto le strutture universitarie scassate dell'Aquila, pagare per un anno le rette degli studenti e poi con quel che avanza acquistare 3.000 casette di legno per gli sfollati del terremoto. Per questa cifra invece si farà una strada, una piccola tangenziale a sud-ovest di Asti, un nastro d'asfalto lungo 5.329 metri. È Sergio Rizzo che scrive questo reportage impressionante sulle infrastrutture, i costi delle infrastrutture, per questa super tangenziale, super poi, 5 chilometri rotti. Che succede? C'è il solito comitato che è nato per ostacolare questa infrastruttura E perché si dice si vuole ostacolare questa infrastruttura? Beh, perché per esempio minaccerebbe una specie di rospo rara, il Pelobates fuscus insubricus, il cui habitat naturale verrebbe seriamente compromesso dalla nuova arteria. E così il partito del rospo si è messo in moto. Vi segnalo tante cose sul burka, la Lega vuole il carcere per chi gira col burka. Vi segnalo anche che la Gazzetta dello Sport ha un'intervista a questo Taci, questo albanese, che dice: Berlusconi, vendimi il Milan, 700 milioni io li ho e rinforzo poi la squadra. Chiudo perché l'avevo detto in apertura, insomma l'apertura del Sole 24 Ore. L'appello di Emma Marcegaglia: più attenti alle imprese, la politica sembra distratta alla crisi. E a questo è dedicato anche l'editoriale di prima pagina proprio di Dario Di Vico del Corriere della Sera, gli italiani invisibili, la rappresentanza di professionisti e piccoli, una rappresentanza di piccoli imprenditori, una rappresentanza che secondo Dario Di Vico è davvero tenuto in poca considerazione soprattutto dalla politica. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di oggi. Voglio ricordare il sondaggio: potete votare su radio24.it, un po' in basso a destra trovate bianco o nero. La domanda è molto semplice: Beppe Grillo è pronto a scendere in politica, ma secondo voi la politica ha bisogno di un Beppe Grillo, sì o no? Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, eccoci qua con l'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, ben ritrovata. Carissimo, come stai stamattina? Benissimo. Ti vedo un po'. Senti meglio di ieri, voce... ma solo un po'. Non è che ancora ti vedo in ottima forma, quindi. Però la settimana è ancora lunga. Infatti, un passo alla volta. Eccoci qua, allora Deborah, di che parliamo oggi? Oggi parliamo di servizi di informazione telefonica. Tu te lo ricordi, Alessandro, noi siamo cresciuti con il 12 della Telecom, no? Certo, sì. Per cercare, non lo so, la farmacia più vicina, piuttosto che avere i numeri di telefono dell'elenco si abbonati. Si faceva con i telefoni a disco. Esattamente, esattamente. Pensa quanto siamo già invecchiati anche noi, se possiamo raccontare di questi ricordi. Magari i ventenni in ascolto neanche hanno la più pallida idea di che cosa stiamo parlando. Detto questo, questo servizio, il 12 della Telecom, io faccio un pochino di storia, fu attivato alla metà degli anni 50. In realtà nacquero anche prima questi servizi, sul finire degli anni 20, quasi un secolo fa, pensate, al tempo erano ovviamente servizi fondamentali per un'efficace diffusione del telefono nel nostro paese e venivano forniti gli indirizzi, come dicevamo prima, del medico, delle farmacie in servizio, ma anche notizie di cronaca, notizie sportive, programmazioni di spettacoli teatrali, fino agli orari dei treni. Poi negli anni 80 il monopolio della Telecom è terminato e c'è stata l'apertura verso un mercato di libera concorrenza fra diversi operatori. Oggi ne abbiamo diversi, cito qualche esempio: l'89-24-24 di Pronto Pagine Gialle, il 12-40 di Pronto Pagine Bianche, sono però, come sapete, tutti servizi a pagamento. Quando noi abbiamo scoperto che sul mercato c'è anche un'azienda che fa un servizio di informazione telefonica di questo tipo del tutto gratuitamente, abbiamo subito voluto scoprire di che cosa si trattasse, come fosse possibile, come sta andando. Buongiorno a Paolo Orlandi, amministratore e ideatore di Never Alone, quindi un servizio che non lascia mai soli nessuno. Buongiorno. Orlandi, buongiorno. Lei è un imprenditore, peraltro, se non ho letto male, nel settore del tessile, era almeno. Sì, la mia famiglia proviene dal settore tessile. Chi gliel'ha fatto fare di buttarsi nel mondo delle telecomunicazioni, che è così competitivo, siete sempre sotto la lente di ingrandimento di tutte le autorità, ma perché? Lei ha ragione, è stata così, un'esperienza, un'idea che mi è venuta negli anni, perché viaggiando parecchio, perché vedendo questa new economy, che comunque è un settore veramente particolare, vedendo questo avvento di Google, che ormai è veramente incredibile, l'idea di poter avere un numero che non fosse più dedicato solo a uno specifico tema, ma potesse essere un numero che offrisse un servizio trasversale, era veramente il mio desiderio più grande. Il vostro numero, peraltro, quello di Never Alone, quello che è possibile comporre per cercare la risposta alla domanda appunto che abbiamo in quel momento, è un numero piuttosto lungo. Io lo do, Orlandi, poi magari ci spiega come mai, in realtà è anche un po' così complicato, per cui facciamo anche prendere nota ai nostri ascoltatori: è 00 800 800 800 54. Come mai tre volte 800 e soprattutto i due zero di fronte? Allora, la cosa più importante sono i due zeri di fronte, perché il numero è un numero internazionale, è una numerazione gratuita internazionale che consente di chiamare il numero di qualsiasi paese in Europa e non solo. È un numero lungo, perché ribadisco, internazionale, quindi le numerazioni internazionali solitamente sono sempre più lunghe. È un numero, una numerazione, lo 00800, che è fornita da un ente che è una sorta di sindacato di tutte le compagnie telefoniche europee, sita a Ginevra, e non siamo l'unica azienda che lo offre. La stessa Fiat ha qualche anno fa utilizzato lo 00800, lo usa ancora tuttora per dare un servizio di assistenza ai suoi propri clienti. Allora, ci spiegava prima, poi magari ci entreremo un po' più nel merito, che cosa vuol dire fornire questo servizio trasversale. Banalmente, se io chiamo il vostro numero, compongo il vostro numero perché voglio sapere che cinema c'è questa sera all'Anteo di Milano, piuttosto qual è la capitale della Tanzania, voi potete darmi indifferentemente le due risposte, giusto? Esatto, noi siamo un servizio trasversale perché in effetti noi utilizziamo quel patrimonio di informazioni che si trovano sulla rete. Quindi in rete oggi si trova qualsiasi tipo di informazione, nazionale ed internazionale. Quindi voglio sapere il numero di scarpe di Michael Jordan, voglio sapere il pure nome delle renne di 7 nani. Chiamerò per sapere qual è il numero di scarpe di Alessandro Milan. Allora, eccolo già, che era già lì pronto, che sapeva che avrei fatto questa battuta. Lì non siete pronti però. Senta Orlandi, il tema naturalmente più interessante è quello che stanno già chiedendosi gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, e come fate a permettervi di offrire un servizio totalmente gratuito? È molto semplice. Noi in effetti ogni chiamata l'abbiamo sponsorizzata da aziende leader europee, per cui nel tempo d'attesa in cui l'utente che chiama aspetta l'operatore che si liberi, ascolta brevi spot di breve durata finché l'operatore risponde. Questi brevi spot consentono di sponsorizzare la chiamata in un tempo illimitato, quindi la durata della chiamata non ha una scadenza, si può chiedere tutto quello che si vuole per tutto il tempo che si vuole. Quanto dura lo spot iniziale che dobbiamo ascoltarci? Dipende, possono essere 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, dipende, ribadisco, dalle code d'attesa. Il tempo è breve, ecco. Ecco, senta, il servizio è già disponibile perché in realtà voi presentate la vostra iniziativa e come andata la vostra attività questa mattina in una conferenza stampa che si svolge proprio a Milano, anche se noi così molto gentilmente Paolo Orlandi ci ha dato la sua disponibilità, vi abbiamo voluto sapere un po' in anteprima di che cosa volessero parlare questa mattina. Siete in realtà già operativi da un bel po' di tempo, come mai la presentazione ufficiale solo adesso, solo ad ottobre, quando so già che per esempio la prima telefonata l'avete ricevuta a metà luglio? Sì, in effetti Never Alone nasce nel 2008, ma come laboratorio. Il 20 luglio di quest'anno ha risposto alla sua prima telefonata e diciamo che è stata una fase in cui abbiamo voluto vedere la tipologia di utente che ci chiamava, e con conferma, ma sorpresa anche da parte di qualcun altro, in effetti la tipologia dei nostri utenti sono sia coloro che utilizzano quotidianamente internet e in quello specifico momento non lo hanno disponibile, quindi possono essere in viaggio, guidando, ecco, quindi nonostante possano avere smartphone, magari per evitare distrazioni preferiscono chiamarci per avere informazioni, sia coloro che, come la gran parte purtroppo della popolazione italiana, non conoscono i benefici di internet, e coloro che sono distanti, ecco, non lo ritengono utile. Quindi non so, l'esempio della signora senza figli di Torino che ci chiama perché è sempre stata curiosita da queste compagnie aeree low cost che hanno purtroppo solo informazioni sui siti internet e quindi chiamano noi per avere informazioni di questo tipo. Ecco, magari adesso continueremo a monitorare la vostra attività per varie ragioni, intanto per capire come reagiranno più avanti i servizi di informazione telefonica che sono a pagamento e quanto loro darete fastidio, ma a parte questo quello che ci interessa sapere, Orlandi, è se da un momento all'altro scopriremo che i vostri servizi sono a pagamento, nel senso, cosa legittima perché nessuno fa niente per niente, ma mi chiedo quanto riuscirete anche a tenere con un'attività di questo tipo. Dicevo prima, è un settore estremamente competitivo quello di cui stiamo parlando, e quindi insomma che prospettive avete anche da questo punto di vista? vista? Ma guardi, la nostra business idea nasce come Never Alone è estensione di internet. Internet è un patrimonio di informazioni gratuito, quindi dire che la nostra business idea passa dal gratuito al pagamento è come dire non ha più ragione d'essere. Per cui noi offriamo questo servizio che sarà sempre gratuito. Poi può darsi che un domani si potrà offrire qualcosa di diverso, di nuovo e di, in più. Per cui sarà necessario essere remunerati, certo. Essere remunerati, certo. Ma l'importante poi anche questa, qualora dovesse essere pagata, Orlandi, l'importante è farlo capire agli utenti in maniera molto molto trasparente, perché non è che certamente va demonizzata la remunerazione di un'attività nei confronti di un imprenditore soprattutto. La ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, so che sarà molto impegnativa per lei, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E adesso vado a comporre il numero per sapere, non lo so, dove va Alessandro questa sera, chissà se mi a casa. No, qual è magari il tema oggetto del tuo sondaggio di oggi? Ma questo lo sanno già anche gli ascoltatori, lo ricordo. Parliamo di Beppe Grillo. Ah, però. Già il nome sta esplodendo. Allora è meglio che Rosa vada al volo, esatto, al centralino, perché oggi esploderanno sicuramente allora, i nostri centralini. Beppe Grillo che dice scendo in politica. Noi ci chiediamo, ma secondo voi la politica ha bisogno di Beppe Grillo? Sì o no? Dovete votare sul sito, mi raccomando rigorosamente, andate lì radio24.it, lo trovate un po' in basso a destra nell'home page, c'è bianco o nero e lì trovate la domanda, oppure il sole24ore.com. Per intervenire, ma solo per intervenire, potete chiamare l'800 24 00 24, non per votare, lì è solo per intervenire. Ma Salva Danaio ci ha detto che sì, la certificazione energetica della casa è mamma mia, guarda, senza comporre neanche nessun numero di informazione telefonica, esatto, peraltro il 12 moderno. E allora le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. È atteso probabilmente per oggi il verdetto sul lodo Alfano, la Corte Costituzionale deve decidere se è legittimo la legge che sospende i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato. A tenere banco ieri alla Consulta gli interventi degli avvocati del Premier. Secondo Niccolò Ghedini, la legge è uguale per tutti, ma non sempre lo è la sua applicazione. In provincia di Messina sono 25 le vittime recuperate dopo l'alluvione, i dispersi sono 10, non c'è più alcuna speranza che siano trovati in vita. Sabato i funerali col sindaco di Messina che polemicamente dice perché per noi non sono stati proclamati funerali di Stato. Infine arriva dalla Lega una proposta di legge anti-burca. Il testo vuole modificare la legge del 75 che prevede il divieto di utilizzare senza giustificato motivo caschi o qualsiasi altro tipo di oggetto indumento come il burca che impedisca il riconoscimento della persona. E allora alle 8:34 minuti siamo pronti per il sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Beppe Grillo domenica scorsa ha detto siamo pronti a entrare in politica. Per la verità già ci sono nel qualche grillino, diciamo, della lista di Grillo, c'è nei consigli comunali, ma adesso si fa sul serio le regionali, due regioni, forse tre. E poi insomma ha detto siamo pronti anche al voto, alle politiche, nel caso ci fosse il voto. Insomma, Grillo che entra in politica. La domanda che vi facciamo, per la quale dovete votare, ma secondo voi la politica ha bisogno di un Beppe Grillo, sì o no? Beppe Grillo domenica era a Milano a presentare appunto il programma del movimento, ha detto tante cose, ne sentiamo qualcuna, cominciamo a sentire che ha detto Grillo sul movimento, che cos'è questa iniziativa? Era la presentazione di una cosa strana, e ci tengo a dirlo perché è ancora una cosa strana per i tanti, anche per me. Vediamo l'evoluzione, secondo me sarà una cosa che ne parleranno. Ma no, io sono sempre stato un politico. Andavo sul palco con la macchina a idrogeno, la macchina a idrogeno, mettevo la mascherina, respiravo dal corpo, facevo vedere le fibre ottiche, quelle, facevo sempre fatto vedere i pannelli, la sega, la taglierba con i pannelli solari. Sono sempre stato curioso, lo spazzolino che buttavi via il pezzettino. Io ho sempre fatto una politica straordinaria. Ho sempre fatto una politica straordinaria, sono sempre stato un politico. Voglio salutare Sonia Alfano, buongiorno. Buongiorno. Sonia Alfano è deputata europeo dell'Italia dei Valori, era presente insieme tra l'altro anche a Luigi De Magistris, alcuni politici insomma dell'Italia dei Valori a questa presentazione di Beppe Grillo. Perché c'è e perché anche De Magistris ha detto appoggeremo alcune delle istanze di Beppe Grillo? Ma io intanto... vorrei dire che non è la prima volta che Grillo fa queste liste. Io personalmente già nel 2007 ho capitanato la lista delle regionali che portava appunto il simbolo e il programma di Beppe Grillo e dei grillini. Io sono un esponente di quel movimento grillino che poi è stato candidato da indipendente all'interno delle liste di Italia dei Valori. E quindi comunque già è da anni che si lavora. La mia presenza domenica là era proprio motivata da questo, per questo motivo, insomma, io non provengo da quel mondo, ho avuto un enorme sostegno da parte dei grillini e la mia presenza là era proprio per significare come davanti a un programma serio, davanti all'esigenza e necessità anche di proporre un nuovo modo di fare politica che è quello di farlo fare direttamente ai cittadini che conoscono i problemi dei cittadini della collettività e che stanchi purtroppo di una politica che invece sembra continuamente voltare le spalle agli interessi della collettività per fare gli interessi dei pochi. Allora in quel momento prendono coscienza e coscienza sì. I cittadini di questa necessità e decidono di... Ma che bisogna fare? Mi scusi, perché anche adesso i cittadini fanno politica. Il modo per fare politica però è quello di eleggere in Parlamento. Certo, se poi qualcuno ce lo permette, visto che le liste sono bloccate. Bravo. Ma questo è un altro discorso. Però non è che con l'arrivo di Grillo ci sarebbe la legge che permette di eleggere e nominare i parlamentari. Ma in ogni caso i cittadini fanno politica eleggendo dei rappresentanti in Parlamento. Questo è il modo che la democrazia si è dato, certo. No? Ce ne vuole uno più diretto, lei dice, più diretto? Ma assolutamente, noi con il primo Videi nel 2007 avevamo raccolto 350.000 firme proprio per chiedere di tornare alle preferenze. È ovvio che ci vuole direttamente una persona rappresentata. Quanto può essere frustrante, ce lo siamo chiesti e credo che lo sappiamo benissimo, andare a votare e essere trattati da analfabeti perché l'unica cosa che ci viene richiesta è quella di mettere un simbolo. Ben cosa diversa è stata quella che abbiamo vissuto alle europee, forse anche per questo sia io che De Magistris abbiamo ottenuto un risultato straordinario, perché la gente ha scritto, era contenta di poter scrivere il nome e cognome della persona che voleva mandare là dentro. Alle europee, questo sì. Io voglio salutare, voglio ricordare innanzitutto, insegnamento dell'inglese obbligatorio fin dall'asilo, le province e le prefetture da subito abolite, la class action da introdurre come negli Stati Uniti, posti in consiglio di amministrazione delle società quotate da riservare ai rappresentanti dei piccoli azionisti, norme sull'ambiente, sui trasporti. Le ho lette così da Il Fatto, che riportava alcuni dei temi che ha lanciato Beppe Grillo domenica al Teatro Smeraldo. Voglio salutare uno che non è mai stato tenero con Beppe Grillo, Filippo Facci, buongiorno. Buongiorno. Editorialista di Libero, tra l'altro non è mai stato tenero né con Grillo né neanche col movimento in cui milita Sonia Alfano. Tra poco so che uscirà a giorni un libro edito da Mondadori, Di Pietro, la storia vera. Filippo Facci, lei già aveva criticato in passato quando Beppe Grillo si era candidato, aveva proposto liste nei comuni. C'è bisogno di un Beppe Grillo in politica? Sì, io non è che avessi criticato il fatto che avesse fatto delle liste nei comuni Grillo, io avevo scritto una biografia di Grillo personalmente, cioè nel senso proprio dell'uomo Grillo, quasi a dire beh, benvenuto in politica, perché la politica è un posto dove comunque ti esponi in pubblico e ti scorticano vivo, e avevo segnalato degli elementi secondo i quali lo stesso Grillo non potrebbe candidare se stesso in teoria al Parlamento, nel quale dice che dovrebbero essere estromessi i condannati. Io non ho niente in contrario alle candidature di chi che sia e ovunque, anzi, è l'unica cosa che giudico interessante è in che maniera concretizzerebbero insomma tutto quello che Grillo dice da un pulpito o dall'altro. Cioè mi sembra semmai che la carburazione sia molto lenta, perché io la prima volta che ho scritto, tra l'altro abbastanza deriso, del fatto che sarebbe stato fatto un partito di Grillo era il 2006, insomma poi ci sono stati i bollini sulle liste, adesso si parla di regionali, due però solo regioni o forse tre, forse in futuro però saremo pronti per le politiche, insomma spicciamoci, perché dopodiché benvenuti, perché è il luogo proprio dove trionfa la democrazia, e se posso aggiungerlo sono perfettamente d'accordo sul fatto che questa legge elettorale sia un orrore. E tra l'altro, per un motivo anche che potrà sembrare contraddittorio, ma proprio perché ha permesso a troppi non politici, a troppi personaggi che hanno un disprezzo borghese, se vogliamo, per la politica, di entrare in questo Parlamento che infatti conta sempre meno. Però voglio far ascoltare sia lei, faccia l'ascoltatore, Sonia Alfano, ancora sentiamo Beppe Grillo che cosa ha detto domenica, per esempio, che cosa ha detto sull'attuale politica, che sicuramente non gli piace, sentiamo. Cosa si inventeranno per fermarci? La cosa essenziale che devono mettersi in testa è che questa realtà, la rete, non si ferma. Loro sono fuori della storia, o capiscono che cos'è, o vengono a parlare, o sono fuori dalla storia. Ed è bellissimo perché tanti del PD verranno con noi e stanno venendo con noi perché hanno capito che quelle dieci sarcofagi che sono le stampelle di Berlusconi hanno capito che lo tengono in vita con le leggi, l'hanno tenuto in vita adesso non andando a votare sullo scudo fiscale, veramente sono penosi. Mi fa molto più pena un dirigente del PD oggi, pena, mi fa incazzare, mentre quell'altro è malato, ormai siamo nella psichiatria, di qua siamo nel furro, mi fanno incazzare proprio perché c'è una malafede totale. Allora, il PD sarcofaghi, Berlusconi è malato, caso di psichiatria, aggiunto poi anche il presidente napolitano Ponzio Pelato, lo chiamo così, Facci, arriva Beppe Grillo, insomma... Cos'è? È un po' sembra quasi da salvatore della patria, no? Sì, abbiamo dimenticato, forse perché è un po' fuori gioco, Prodi Alzheimer. Beh, insomma, non dimentichiamo che Grillo penso che resti un comico, e una volta tanto non è un'offesa. Io adesso, cercando di essere una volta tanto costruttivo, senza mettermi a denigrare, ecco, queste offese gravi... Mettiamola così, io capisco le ragioni strategiche di marketing che costringono Grillo a cercare di denigrare quello che ormai è un avversario politico, nelle maniere anche più dure e secondo me talvolta semplicemente intollerabili. Diciamo però che se col tempo si rarefacesse, ecco, questo tipo di invettiva, lasciando più spazio alle proposte o al libro dei sogni, secondo i punti di vista che fa parte del suo programma, magari queste stesse proposte avrebbero più spazio e potrebbe essere votato per quello che propone e non solo per le persone contro le quali si rivolge. No, essere più propositivo, ma su questo tra l'altro c'è un ospite che tra poco farò parlare, ci sta ascoltando, è David Borrelli, che intanto saluto. Borrelli, buongiorno, ci sta ascoltando con pazienza. Prima voglio ricordare sul sito radio24.it appunto la domanda è questa: la politica secondo voi ha bisogno di un Beppe Grillo? Bisogna dire che in questo momento il 60% dice di no. Grillini, dove siete? Dove siete? Andate a votare sul sito di radio24.it. Vorrei andare per un attimo a Frosinone, forse. A Frosinone, Fabio, c'è un ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024. Fabio? Sì, buongiorno a tutti. Che dice di Grillo in politica? Va bene, va male? A me preoccupa alquanto, ma per un motivo più tecnico che non sulla sua posizione così, diciamo, sui generi, cioè? Di come si propone. Cioè, io da anni collaboro con politici a tutti i livelli e mi accorgo sempre più della necessità che il politico oggi deve avere competenza, perché non è facile gestire l'amministrazione pubblica se non si ha almeno una cognizione di quello che sono le norme amministrative, tecniche. Sì. Vedo politici in grossa difficoltà quando assumono solo con il consenso alcune cariche. E lei dice che Beppe Grillo, secondo lei, non ha, a parte che non si mette in prima persona, ma non ha, secondo lei, le competenze tecniche? Ma secondo me nemmeno... Ce le hanno i politici, molti dei politici nominati o cooptati in Parlamento ce le hanno, secondo lei, queste stesse competenze? Guardi, non tutti, e infatti quelli che non ce le hanno fanno molto spesso dei danni importanti. Appunto. E quindi secondo me è un motivo in più perché lui possa ragionare su una cosa che poi alla fine gli può ritorcersi contro, perché me lo immagino a parlare di una conferenza dei servizi o a parlare di un contratto di programma. No, no, ma certo, le cose tecniche. Grazie Fabio. Ha detto che lui ha dichiarato, vadano avanti i 20-30 anni, io lancio delle idee, lancio un movimento, metto la mia faccia, metto le mie competenze, ma poi sono altre ad andare avanti. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Beppe Grillo dice scendiamo in politica, alle regionali, alle politiche nel caso, ma secondo voi la politica ha bisogno di un Grillo? Sì o no? David Borrelli, eccoci qua, buongiorno ancora, consigliere comunale della lista Grilli di Treviso. Che vuol dire fare la politica? Lei la fa in maniera attiva all'interno del Consiglio Comunale in nome delle idee di Grillo? Cioè che fate? Che fa lei? Intanto buongiorno a tutti e un caro saluto anche a Sonia se ci ascolta ancora. Certo, certo. Ma noi facciamo quello che fanno tutti gli altri consiglieri, nel senso andiamo ai vari consigli comunali e proponiamo le idee che non solo arrivano da Grillo, ma arrivano dalla rete, da tante altre persone che come noi navigano in internet e si scambiano opinioni e idee. E proponiamo queste idee, tra virgolette, innovative, che nel mio caso specifico vengono poi tutte votate all'unanimità e per cui poi diventano anche realtà nel mio comune. Per esempio? Cioè, beh, dica allora, qualche proposta che ha fatto, magari anche che è stata accolta, che è stata bocciata. Sì. Allora, per esempio abbiamo organizzato una raccolta differenziata con l'obiettivo di raggiungere i rifiuti zero in tutte le scuole, andando a insegnare ai ragazzini come differenziare i rifiuti e perché lo fanno. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di permettere a un cittadino di collegarsi con gli uffici comunali senza dover andare a prendere la macchina, andare in centro e trovare parcheggio, ma direttamente con l'utilizzo di Skype, che è un sistema gratuito di connettività in internet. Sì. In cui si può parlare tranquillamente direttamente con il tecnico e addirittura fare un broadcast e per cui interpellare più tecnici. Abbiamo fatto metanizzare per esempio tutti i veicoli comunali trasformandoli da benzina. Cioè avete fatto vuol dire che sono proposte che lei ha portato avanti e che sono state passate? Sono state tutte portate in consiglio comunale da me e sono state votate tutte all'unanimità, per cui maggioranza compresa. Abbiamo, la settimana scorsa è stato deliberato la possibilità di mettere a norma una scuola dal punto di vista energetico e abbiamo realizzeremo un tetto fotovoltaico per renderla totalmente indipendente dal punto di vista energetico. Abbiamo creato una mappa interattiva di Treviso e l'abbiamo messa online in maniera che i cittadini possano proporre delle modifiche dal punto di vista urbanistico, per esempio se cambiare un senso unico, magari le persone che vivono in quei quartieri, che conoscono sicuramente le zone meglio di me, meglio di altri consiglieri, possono intervenire sulla rete. Mi sembra da dire quello che vi anima anche avere un contatto diretto, cercare di risolvere come dovrebbe fare qualsiasi consigliere comunale, insomma anche i problemi dei cittadini, quelli concreti della vita quotidiana, no? Siamo lì per quello e abbiamo la fortuna, secondo me, io ascoltavo con molta attenzione gli ospiti precedenti, sono convinto che ognuno abbia giustamente la sua verità, però secondo me è stata dimenticata proprio questa cosa, l'utilizzo della rete. La rete è uno strumento oggi potentissimo, mi dà la possibilità di comunicare con tanti dei cittadini di Treviso in maniera molto diretta e io mi faccio semplicemente portavoce, come dovrebbe secondo di me. Di quelle che sono le proposte diciamo popolari raccolte. Vediamo due pareri se ce la fanno prima di tornare un attimo da Sonia Alfano. Davide da Torino, buongiorno. Buongiorno. Che ne pensa lei? Pro Grillo, contro Grillo? Grillo in politica o no? Io ho 30 anni, navigatore, internauta sfegatato, quindi pro Grillo assolutamente. Ho capito, ma che c'entra con la politica? Cioè, non confondiamo. No, c'entra il come, perché anche lì si fa politica e David Borrelli l'ha appena detto. Sì. Io conosco David Borrelli perché l'ho seguito. Bene, vedi che i grillini sono arrivati finalmente. Conosco anche le vicende di Pavia, è stato eletto consigliere a Bologna contro ogni pronostico. Questo anche grazie al tour che si è fatto Grillo quest'anno. No, certo. Quindi insomma lei è a favore anche perché per valorizzare la rete, le proposte globali, le proposte di tutti. Vado veloce così abbiamo tanti pareri. Matteo, ce la facciamo dalla provincia di Milano. Buongiorno. Matteo? Sì, buongiorno, sono qui. Eccoci, è a pro o contro Grillo in politica? Io sono contro Grillo in politica. Perché? Contro il personaggio, perché è sempre contro, sempre a attaccare destra, sinistra, in senso generico. Invece vedo un Grillo, cioè mi è piaciuto quel consigliere comunale, che ha riscoperto il ruolo del politico. Certo. Non voglio il grillo arrabbiato che attacca tutto e tutti e denigra tutto e tutti. Voglio dei politici che propongono, che sentono la base, che si tengono in contatto con il pubblico, i cittadini, raccolgono le proposte più interessanti e che perciò le portano in consiglio e la prova. Questo, Matteo, è un punto interessante sul quale vorrei tornare da Sonia Alfano e Filippo Facci. Alfano, le chiedo, quello che ci ha detto David Borrelli sono tutte cose concrete, che ha detto proposte portate per risolvere problemi concreti di cittadini, uno o più cittadini, e votate all'unanimità. Allora, su questa base chi può dirsi contrario? Però l'abbiamo sentito Beppe Grillo, questo voler sfasciare tutto, i sarcofagi di qua, il malato psichiatrico di là, Ponzio Pilato, l'Alzheimer, voglio dire, come si conciliano le due cose, Alfano? Sì, allora anch'io saluto David. David è l'esempio straordinario di come la politica fatta dal basso poi si concretizza. Ma noi dobbiamo sempre tenere presente una cosa: Beppe non ha nessuna intenzione di candidarsi. Beppe, e credo che tutti quanti debbano ringraziarlo per quello che sta facendo, Beppe è un comico, non dimentichiamocelo mai. Però ha detto lui è un politico, lui ha detto sempre politica. Voleva fare le primarie del PD, voleva fare le primarie. Bravo, ma per questo sì, però questo perché, chiediamocelo, perché da troppo tempo molti politici, non tutti, ma molti politici fanno i clown, fanno i pagliacci, mangiano la mortadella in Parlamento. Guardate che non siamo stati noi a denigrare la politica, ad attaccare. Quindi a questo punto, se un comico, che voglio dire, ha avuto una carriera straordinaria, folgorante, decide di continuare a metterci la faccia, sapendo di essere poi impopolare, per cercare di svegliare soprattutto le generazioni più giovani, io credo che questo sia soltanto da ammirare. Se poi le TV, i giornali fanno solo e sempre vedere Beppe che dice le parolacce, vabbè, quello ci può anche stare, però raramente riprendono tutto quello che dice Beppe, che proposta, poi è quello che ha fatto Davide. Che fa concretamente Borrelli, esatto. Sì. Io vorrei anche dire una cosa. Davide fa questo a livello comunale e ce ne sono tanti altri, appunto come ricordava l'ascoltatore da Torino. E dice bene quando dice che la rete è fondamentale. E non possiamo dimenticare che io e De Magistris siamo stati eletti grazie soprattutto all'aiuto fondamentale della rete. Sì, e vogliamo ricordare che lì il nome andava scritto alle europee, non è che appunto erano cooptati. Filippo Facci, ho un minuto per chiudere. È una provocazione che molti ci hanno dato, da una parte e dall'altra, sia per motivare il sì o per motivare il no. Visto che ci sono tanti pagliacci in politica, va bene, pagliacci in senso, voglio dire, nessuno si offenda, ma insomma anche Sonia Alfano ha detto ci sono tante scene che abbiamo visto in Parlamento, e allora perché un comico non può parlare di politica, ma poi parla di cose concrete? Ha sentito Borrelli che dice le cose concrete che ha fatto? Io penso che ciascuno possa dire quello che vuole, candidarsi dove vuole e su quella base essere giudicato. Poi il giudizio di Sonia Alfano, su un po' generico sulla classe politica, vabbè, è il suo giudizio. Vorrei aggiungere una cosa però, la politica non è un compitino fatto da persone di buona volontà che abbiano una singola competenza, che spiega perché tante volte i cosiddetti tecnici hanno fallito in politica, o perché la professione del politico male esiste in tutto il mondo. Il politico è una personalità che ad alti livelli si esprime conoscendo il tessuto reale del paese, nel bene e anche nel male, perché la politica è l'arte del possibile, e si rapporta semplicemente a questo. Altrimenti, se si vogliono fare delle battaglie di lobby su singole questioni, benissimo, va bene anche questo. Abbiamo da 30 anni e più, per esempio, i radicali su questo. Credo che più di questo i grillini non potrebbero fare, per esempio, buttandosi sull'ecologia. Ci fermiamo qui. Ringrazio Sonia Alfano, eurodeputata dell'Italia dei Valori, David Borrelli, che è consigliere comunale a Treviso della lista Grilli di Treviso, e Filippo Facci di Libero. Voglio ricordare, a giorni uscirà il suo nuovo libro, Di Pietro, la storia vera. Grazie a tutti, dovete votare sul sito radio24.it o il sole24ore.com. su radio24.it al momento il 70% dice no, Beppe Grillo in politica. Ma grillini, dove siete? Votate lì. Ci sentiamo domani, ringraziando Alessandro Marcotulli in redazione e Peter Bescapè in regia. A domani alle 7.30.